Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali di Matteo Caccia. Si può raccontare una storia in moltissimi modi. Noi a Linee d'ombra tutti i giorni la raccontiamo in un unico blocco, in un unico nucleo narrativo, no? Per cui ci mettiamo lì, le diamo 5-10 minuti di tempo e cerchiamo di raccontarla dall'inizio alla fine. Questa storia seriale che vi stiamo raccontando, dedicata tutta al vizio dell'invidia, è una storia molto molto dura, molto forte. Lo avrete sentito se avete seguito le scorse puntate. È la storia di un uomo che ci sta raccontando come la sua vita va letteralmente in rovina a causa della fine della storia con la sua ex moglie, che inizia un'opera di stalking serrata e terribile e drammatica nei confronti suoi, nei confronti della sua nuova compagna, ma soprattutto nei confronti dei figli che hanno in comune, uno dei quali è adottato. Insomma, è una storia terribile, lo si sente anche dalla sua voce, lo sentirete dalla sua voce. Le nostre storie seriali sono una sorta di fotografia di un pezzo della vita delle persone che va un pochettino più a fondo rispetto alle storie che vi raccontiamo, che durano l'arco di una puntata. Queste durano l'arco di un mese di solito, e Mauro Pescio, che le raccoglie e le condivide con noi e per noi, sta con queste persone, le intervista, cerca di entrare in punta di piedi ovviamente nella loro vita, e loro hanno, quando ovviamente accettano, decidono di condividere un pezzo della loro vita che sta al confine delle linee d'ombra, appunto, anche se in realtà la storia del protagonista di questa storia seriale purtroppo è molto al di là del confine della linea d'ombra. Direi che decisamente in un pezzo scuro della sua vita, e gli auguriamo di poterne uscire, gli auguriamo veramente il meglio. È dedicata all'invidia perché di fatto, anche se probabilmente davvero potrebbe contenere tutti i vizi capitali, i vecchi e i nuovi, abbiamo deciso di farla rientrare nel vizio dell'invidia perché il desiderio della sofferenza, il desiderio della mancanza di felicità all'interno di una coppia che si è frantumata, è davvero quello che porta, direi letteralmente, alla rovina entrambi. Mettetevi comodi, è una storia dura, non è una storia natalizia, ma è una storia che racconta un pezzo di realtà. Tieni conto che l'unica utenza su cui io chiamo è la sua, perché è l'unico modo per contattare il bambino. Vabbè, lasciamo per cui io chiamo la sera, una volta la sera, un minuto e dieci, questo è, e lei disse che faceva stalking, che sta chiesto i tabulati telefonici da gennaio dello scorso anno a luglio dello scorso anno. Tieni conto, se tu fai il calcolo, una telefonata al giorno, per 6 mesi ho 180 telefonate, o no? Sono 70. Quindi non ci sono manco tutte le telefonate, non so se rendo l'idea, quindi ho fatto stalking, vabbè. Tenendo conto che lei stessa ha detto che l'unico telefono che puoi chiamare è quello, nessun altro telefono, benissimo. E leggo praticamente che quindi c'è, immagino io mi sarei trovato i carabinieri a casa se il GUP avesse accettato, senza sapere, ci devi andare perché sei stalkizzato. La mia ex moglie, in preda alla sua invidia, mi denuncia anche per stalking, chiede misure cautelari urgenti nei miei confronti, che per mia fortuna non hanno seguito. Io, per parare i colpi, la controdenuncio per falsa testimonianza, per cui ancora c'è un processo in corso. Negli atti trovo anche alcune dichiarazioni di mio figlio maggiore, Luca, contro di me. Il giorno prima era il suo compleanno, è venuto a prendersi il regalo, ci siamo salutati, e il giorno dopo, plagiato dalla madre, è andato a testimoniare contro di me. Lui nega la realtà. Se è la mamma a chiederglielo, lui lo fa. Se si convince di fare un torto alla mamma, lui è capace di dire che piove anche quando fuori c'è il sole. È stata lei a convincerlo a testimoniare contro di me. Così vengo rinviato a giudizio a causa delle dichiarazioni dei miei figli. Nel frattempo sono obbligato dal giudice a frequentare il mio figlio più piccolo, Giovanni, ma i nostri incontri sono terribili. Sono davvero drammatici per entrambe, sia per me che per lui. All'inizio doveva stare 3 ore con me, ma non è mai stato più di 1 ora e mezza. Gli sembrava di fare un torto alla mamma a stare in mia compagnia. Decido che c'è plagio nei suoi confronti e chiedo una perizia. Il provvedimento ci impiega 9 mesi. Alla fine stabilisce che vivano nella casa coniugale e che Giovanni passi con me 2 pomeriggi alla settimana e 20 giorni continuativi in estate. Io penso che per un bambino che mi vede così poco e malvolentieri, che non dorme mai a casa mia, diventerebbe una tortura stare con me per 20 giorni continuativi d'estate. Faccio appello, passano molti mesi senza che succeda niente e intanto arrivano i 20 giorni in cui Giovanni dovrebbe trasferirsi da me. Alla fine riusciamo ad accordarci perché siano 10, e senza il pernottamento, perché il bambino non ha mai dormito da me prima e sarebbe dolorosissimo per lui un cambiamento così drastico dalla mattina alla sera. Ma alla fine del primo giorno, dopo una giornata difficilissima, mi ripete di nuovo la minaccia di autoinfliggersi del male. Di fronte a questo, facendo un gesto d'amore che mi costa tantissimo, prendo per la seconda volta la decisione di sospendere i nostri incontri. Senti, non c'è tempo, perché anche nel sonno... Non stacchi mai da una roba del genere, neanche durante il lavoro, mai. Anche nel sonno? Non ci credo. C'ho degli incubi la notte, terribili. Scusami se piango, ma... è cambiato tutto. L'altro giorno, ormai io non ho più niente da perdere, io devo rappresentare, come dire, un magico per questo bambino. Per fortuna la seconda perizia che ho richiesto arriva. Per legge ci dobbiamo presentare tutti e tutti dobbiamo essere analizzati. La psicologa del tribunale, dopo molti colloqui con noi e dopo aver studiato con attenzione tutti gli atti del tribunale, non dice che la mia ex ha ostacolato il nostro secondogenito nel vedermi, ma fa intendere chiaramente che non l'ha favorito. Ha dato questo tipo di diagnosi perché altrimenti la mia ex sarebbe stata perseguibile penalmente, in quanto il genitore collocatario ha l'obbligo di fare in modo che il bambino veda anche l'altro genitore. Inoltre, se avesse confermato questa tesi fino in fondo, avrebbe dovuto affidare Giovanni ai servizi sociali immediatamente. Nella sua relazione invita il presidente del tribunale a fare in modo che il bambino riprenda assolutamente i contatti col paterno, ovvero con me e con tutto il mio mondo relazionale, da mio fratello ai miei amici e ai miei parenti, perché è ad alto rischio di psicopatologia. Spiega anche alla mia ex che Giovanni sta correndo seriamente il rischio di sviluppare una psicopatologia che potrebbe essere un disturbo borderline, una psicosi vera e propria, un disturbo della sfera sessuale o dell'identità. Ma anche di fronte a questo, la mia ex non indietreggia. Io ho preso davvero tante botte da lei, fisiche e psicologiche. Ho messo davvero la mia dignità sotto i piedi. Lei sa che io sono un grande incassatore, che sopporto il dolore. Per questo decide di colpirmi con l'unica arma davvero insopportabile. Un giorno ero imbottigliato nel traffico e me la trovo di fianco alla macchina, a passeggio. Quando mi vede, si avvicina alla macchina, mi ricopre di insulti. Per fortuna il traffico finalmente scorre e io mi avvio, ma a quel punto la sua rabbia era montata, quindi mi rincorre a piedi, si butta quasi sul cofano della mia auto. Io le giro intorno e mi allontano, ma questo per lei basta per comporre una nuova accusa contro di me. Una settimana dopo mi arriva una denuncia per tentato investimento. Ma se questo me lo potevo anche aspettare, quello che non avevo preso in considerazione era che il suo testimone principale fosse Luca, il nostro figlio primogenito. Cerco di chiamarlo per chiedergli spiegazioni, ma lui, spinto dalla madre, non mi risponde più al telefono. Lo incontro finalmente il giorno in cui il giudice mi convoca e prima di entrare gli dico: spiegami com'è che tu testimoni che mi hai visto che volevo mettere sotto la mamma con la macchina, che nemmeno c'eri tu quel giorno. Lui è confuso, mi risponde a mezza bocca: ma no papà, io non volevo dire questo, io volevo dire che tu la volevi schivare. Quando ci salutiamo lo metto in guardia che in un processo la falsa testimonianza è un reato, e da quel momento non lo vedo più. Storie dei nuovi vizi capitali. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. È terribile, guarda, io non lo auguro. Allora, io credo che non possa esistere in vita il peggior nemico tra gli esseri umani. È vero, homo lupus hominis, però il peggior nemico è un'estremizzazione, un'iperbole di quello che diciamo. Per cui si dice: io non lo auguro nemmeno al peggior nemico. Facendo finta che ci sia, io ti dico, vado oltre, io non lo auguro a due peggior nemici. La mia storia è una storia veramente fortissima, ha tante peculiarità, E dico, ma allora veramente, a me, ma veramente mi è andata proprio male, male, male, male. Per cui io dico, ma, quindi, ma io se l'avessi veramente maltrattato, questa mi avrebbe fatto uccidere, avrebbe mandato qualcuno. A volte è come se uscissi fuori dal mio corpo e ne parlassi come di qualcosa che sta accadendo a una terza persona. Lo faccio per salvarmi. Sì, mi è andata male. Io riconoscevo anche in passato dei tratti della sua personalità complessi, ma cercavo di non vederli. E ho anche l'aggravante di avere delle competenze in merito, però quando uno è innamorato, io non me lo perdonerò. Sai come diceva Edoardo? Edoardo diceva, se un cuore innamorato potesse scrivere, sai quanti scarabocchi farebbe. E poi con la nostra storia, con un figlio adottato, un altro che viene per il rotto della cuffia, molto avanti nell'età, ha rovinato tutto, è cambiato tutto. Ormai non ho più niente da perdere. Anche nel sonno, non stacco mai, anche nel sonno, anche al lavoro, ho degli incubi terribili di notte. Lei è come se avesse una rabbia di chi viene lasciato e non di chi lascia. Lei vede solo se stessa, non vede i figli, non il compagno, non vede altro che se stessa. Il suo ruolo è quello del persecutore, come Medea. Non vede nemmeno i suoi figli, se non come un'arma da sfruttare contro di me. Questo bambino lo sta distruggendo, ha un tale delirio di onnipotenza, di onniscienza, che lo sta distruggendo. Nessuno le dà consigli, nessuno riesce ad avere con lei un rapporto di fiducia o di ascolto. Lei ha delle grandi capacità di persuasione, è istrionica, è manipolativa, è convincente, è seduttiva, ha convinto me per 28 anni. Utilizza queste armi anche con le forze dell'ordine, con i giudici, con gli psicologi, non guarda in faccia a nessuno. Addirittura si sostituisce alla legge. Mi manda messaggi tutti i giorni. Se ne frega che diventino prove. Come lei ha dominato me, è chiaro che domina anche il suo nuovo compagno, però non ha messo in conto un particolare determinante. Con me lei giocava tutto sul suo corpo, sulla sua bellezza, però questa cosa sta svanendo e il tempo che le rimane per esercitare questo potere si sta accorciando. E cosa accadrà quando finirà? Questo però non mi riguarda più. Se io riuscirò a recuperare il rapporto con i miei figli, sarà un uomo felice, tutto qua. Per me non otterrò magari niente, ma tutto quello che faccio lo faccio solo perché i miei figli un giorno non possano dire: papà, non hai fatto niente per noi. Thank you. Mauro ha raccolto la drammatica storia di vita di Luciano un po' di tempo fa e da allora non aveva mai avuto occasione di riparlarci, ci ha detto, fino a quando non abbiamo deciso qui nella redazione di Linee d'Ombra di raccontarla in forma seriale. Così, dopo aver scritto i copioni, Mauro ha pensato che sarebbe stato bello chiudere questa serie dedicata al vizio dell'invidia su tutta sulla sua storia facendo un salto temporale, nella speranza di avere da parte sua delle buone notizie, cioè a che punto l'abbiamo lasciato e a che punto è oggi. Per questo motivo il mese scorso lo ha ricontattato e questo è quello che ci ha raccontato. Non so se rendo l'idea. Allora, usare una metafora che rende: questo è il caso in cui l'aguzzino non uccide mai la vittima, la mantiene moribonda. Eh sì, guarda, l'ho usato per aprire, per raccontare all'inizio proprio questa metafora, perché me la ricordavo molto molto bene. E allora puoi anche usarla alla fine, scusami se ti suggerisco. Da quando ti ho raccontato la mia storia sono passati quasi 2 anni, ma purtroppo la situazione non è andata meglio. La luce in fondo al tunnel di questa tristissima vicenda ancora non si vede. Oggi siamo in tribunale, stiamo facendo le udienze, mio figlio maggiore ha testimoniato contro di me e potrei darti molto altro materiale rispetto alla mia vicenda. È un'odissea che non accenna a finire. Proprio poche ore fa ho saputo di un'ultima mossa della mia ex. Ha appena donato il 50% di un immobile che abbiamo ancora in comunione dei beni a mio figlio maggiore, senza interpellarmi. Però dalla visura ho scoperto che il 50% ora appartiene a mio figlio, che intanto è pronto a testimoniare per mandarmi in galera. E il restante 50%, che dovrebbe essere mio, risulta cointestato al 25 a me e al 25 a lei. Purtroppo mio figlio persevera, è completamente assoggettato. Noi psicologi lo definiamo in una posizione di subroutine di resa. Anche il nostro secondo genito sta crescendo con quel modello ormai appreso. È stata finalmente la sentenza di separazione definitiva e il giudice ha rimodulato il provvedimento riconoscendomi il fine settimana che io non avevo e varie feste con i miei figli, tipo compleanni, ma il piccolo non ce la fa. Il danno è fatto e soffre a tal punto che abbiamo deciso di vederci solo quando vuole lui. Dunque io lo chiamo al telefono, lui mi dice quando è disponibile a vedermi. In pratica ci vediamo una volta a settimana, ma nell'ultimo mese non l'ho visto quasi mai. Accampa scuse e mi accusa di varie responsabilità. È convinto di avere un papà cattivo. Mi ha messo in punizione e non vuole uscire con me. Non so a questo punto cosa augurarmi per lui. Spero per lui soprattutto che ha una buona intelligenza, che cresca senza in futuro usare le sue capacità per fini non condivisibili socialmente. Riesco a sopportare questi dolori non so come. La mia storia di vita precedente ha fatto sì che io potessi sopportare anche queste prove, ma è molto dura. Grazie al tuo, al vostro lavoro, però, una piccola consolazione ce l'ho. Spero che ascoltare il racconto di questa terribile esperienza possa essere utile ed esemplare per qualcun altro, affinché non ripeta i nostri stessi errori. Chiudiamo qui questa storia e ringraziamo davvero moltissimo Luciano. Si chiama Linee d'Ombra questo programma e si chiama così perché sì, raccontiamo le storie dei vizi capitali, ma perché spesso raccontiamo qual è il confine spesso sottile che si trova tra la luce e l'ombra nelle vite di ognuno di noi. Questa storia lo racconta, ahimè, in maniera molto molto drammatico qual è quel confine e racconta soprattutto che cosa c'è al di là di questo confine, che è una zona d'ombra e spesso una zona anche di enorme sofferenza. Entrare nelle vite delle persone persone come facciamo in questo programma, come facciamo grazie alle vostre storie, non è facile. Cerchiamo di farlo con il massimo rispetto possibile e gestendo le cose nel modo migliore, cioè restituendo le storie per quello che sono, cercando di stare un passo indietro alle storie e lasciando loro davanti, in modo che ciascuno possa ascoltarsi e farsi l'idea che vuole. Io ringrazio come sempre le persone che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Luca Micheli e Mauro Pescio, ovviamente, che scrive e raccoglie queste storie per noi. Torniamo qui a raccontare storie appena possiamo, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!